Letture di Radio 24. Si aspetta la data del referendum 2011 che chiamerà il popolo italiano a esprimersi sul legittimo impedimento, privatizzazione dell'acqua e nucleare. Non ancora definita la data in cui gli italiani saranno chiamati alle urne, anche se le ultime dichiarazioni del ministro Roberto Maroni danno come sicuro il 12 giugno. È dal 1995 che un referendum abrogativo non riesce più a raggiungere il quorum in Italia. Il 18 aprile del 99 si votava sull'abolizione della quota proporzionale, il quorum fu mancato per poche migliaia di elettori. Ma le ultime consultazioni, nel 2003 su ecologia e lavoro, nel 2005 sulla procreazione assistita, nel 2009 ancora sulla legge elettorale, sembravano aver demolito l'istituto referendario. Due anni fa si toccò il record negativo del 23% dei votanti. Eppure la prossima tornata di referendum, trainata dal quesito contro il nucleare, preoccupa il governo. I sondaggi rilevano come l'emozione suscitata dalla tragedia giapponese potrebbe scuotere l'elettorato e il quesito sul nucleare, combinato con quello sul legittimo impedimento e con i due sull'acqua, assumerebbero una pericolosa, esplicita valenza antigovernativa. Nasce da qui il tentativo di raffreddare il clima. Il governo ha anche studiato la possibilità di un intervento legislativo per eliminare dal pacchetto il quesito sul nucleare. Ma la strada non sembra percorribile. L'auspicio di Palazzo Chigi è che la moratoria serva ad allentare la tensione e la mobilitazione referendaria e che la data del 12 giugno, successiva ai due turni delle amministrative, faccia il resto per scoraggiare la partecipazione. Le opposizioni di contro cercano invece di tenere alto l'interesse e anzi di marcare il contenuto antigovernativo. Indicativa in questo senso è stata la riunione della segreteria del PD. Pierluigi Bersani ha già anticipato l'orientamento per il sì in tre quesiti, a partire proprio da quello sul nucleare, e ha per ora accantonato il secondo quesito sull'acqua, quello sulla partecipazione di privati nella distribuzione, che cancella una norma voluta dal governo Prodi ed è obiettivamente contrario alle politiche del PD. L'idea di Bersani è di convergere, alla fine, nella mobilitazione del sì, evitando distinguo che possono creare difficoltà agli elettori. Il secondo quesito sull'acqua potrebbe essere sacrificato per il PD in nome di una battaglia per una riforma più ampia del settore idrico, che confermi la proprietà pubblica dell'acqua e delle reti, ma consenta anche la necessaria partecipazione delle risorse private. E se il PD si prepara così alla battaglia del referendum, è evidente che Berlusconi sta predisponendo le sue contromosse, che puntano decisamente al mancato raggiungimento del quorum. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il referendum fa paura, pubblicato da Il Messaggero del 23 marzo. Si può dire che le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia hanno consacrato la popolarità del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Una notorietà così condivisa da tutti gli italiani da non rendere azzardato il confronto con un altro grande presidente del passato, Sandro Pertini. Mancava un'ora all'arrivo di Giorgio Napolitano a Varese, la città culla del leghismo, e centinaia di persone in piedi gridavano «dateci le bandiere tricolori» e all'arrivo del presidente si erano messe a cantare per strada l'inno nazionale. Due immagini che hanno finito per trasformarsi in un evento simbolico. Il momento culminante di una popolarità del capo dello Stato che negli ultimi mesi ha assunto manifestazioni sempre più palpabili, al punto che, per la prima volta, non appare improprio un accostamento di Napolitano a un presidente della Repubblica che, in termini di favore popolare, sembrava inarrivabile, Sandro Pertini. Viene eletto presidente nel luglio del 1978. È considerato privo di sensibilità politica e la sua elezione coincide col momento di massimo discredito della politica, accerchiata dal terrorismo e dagli scandali. Ma Pertini darà un'interpretazione scoppiettante al suo settennato. Travolge il protocollo, usa un linguaggio diverso dal politichese in voga. Ed è proprio qui che cominciano ad affiorare le diversità. Appena insediato al Quirinale, nel maggio del 2006, Giorgio Napolitano ha confermato la sua vocazione istituzionale, la sacralità che attribuisce alle parole, la forma che per lui è quasi sempre sostanza. Mentre Sandro Pertini, da vecchio socialista, In qualche modo la popolarità se la cercò, anche con qualche eccesso. Un presidente come Napolitano, nella linea di Scalfaro e Ciampi, gode di un consenso popolare più confortante, perché lui unisce nel nome di solidi valori costituzionali. La popolarità di Napolitano non è giocata sul piano della personalizzazione, ma sulla fierezza della continuità con una tradizione e uno stile. E dunque, pur nelle loro profonde differenze, i due presidenti hanno finito forse per diventare popolari per lo stesso motivo. Mentre Pertini ruppe col politichese e con i suoi riti, il Napolitano è rivoluzionario alla misura, una misura che è fermezza in un contesto politico che è così sconfortante. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Fabio Martini dal titolo Pertini e Napolitano, così diversi, così simili, pubblicato dalla Stampa del 23 marzo. La crisi libica ha evidenziato la mancanza di una politica estera comune dell'Europa. La Francia interventista contro una più cauta Germania, l'Inghilterra incapace di mediare tra Obama e la vecchia Europa e l'Italia sola e affacciata sul Mediterraneo. L'Europa ha finalmente un unico numero di telefono, come invocava Henry Kissinger, quello del capo della diplomazia comunitaria, la baronessa Catherine Ashton. Peccato che quando lo si compone scatti solo una segreteria telefonica che risponde: se volete conoscere le posizioni inglesi, digitate 1. Per quelle francesi, digitate 2. Per le tedesche, 3. Per le italiane, 4. La feroce battuta che circolava nei giorni scorsi nelle cancellerie internazionali lascia un retrogusto ancora più amaro alla luce dei contrasti tra europei esplosi sull'intervento militare in Libia. Divisioni emerse già la settimana scorsa nel Consiglio di sicurezza dell'ONU con l'astensione tedesca sulla risoluzione 1973, contrapposta all'attivismo di Francia e Regno Unito e rese ancor più profonde dalle frizioni tra Parigi e Roma sulla catena di comando. Contrasti europei accentuati dalla linea un po' ondivaga tenuta dall'amministrazione di Barack Obama, incalzata dall'interventismo di Nicolas Sarkozy, propensa a lasciare la mano dopo qualche giorno a un comando franco-inglese delle operazioni, ma nelle ultime ore più decisa nel sostenere un comando o almeno un ruolo chiave della NATO. Non sorprende che Parigi e Londra abbiano assunto la testa dell'iniziativa in Libia, in quanto l'asse franco-inglese da tempo costituisce il nervo dell'Europa della difesa, quanto l'asse franco-tedesco lo è di quella economica. Ma peccato che dietro al frenetico attivismo di Sarkozy, più che il vessillo europeo della libertà, si possa intravedere la voglia di far dimenticare la compromissione del suo governo con i regimi di Ben Ali in Tunisia e Mubarak in Egitto, di recuperare popolarità all'interno e forse, a voler essere proprio maliziosi, anche di vedere espandere gli interessi di Total in Cirenaica. D'altro canto, nell'astensionismo di Angela Merkel sembrano prevalere le stesse preoccupazioni di popolarità interna a pochi giorni dalle elezioni nel cruciale Land del Baden-Württemberg di domenica prossima. Quanto al britannico David Cameron, non è parso svolgere con successo sotto traccia il ruolo di gran mediatore tra Europa continentale e Stati Uniti, anche se alla fine ha aiutato a ricomporre i cocci dell'ultimo compromesso sul ruolo del comando NATO. E così, con questi piccoli leader europei, ci si trova ora confusi nel mezzo di un delicato intervento militare in un ambito estremamente complesso come quello libico, con l'aggravante per l'Italia di avere importanti interessi energetici in gioco e coste molto vicine, dalle quali possono partire in ogni momento migliaia e migliaia di profughi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Enrico Brivio, Europa di leader piccoli piccoli, pubblicato da Il Sole 24 Ore del 23 marzo.